9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 4 maggio e oggi per ricordare come sempre gli avvenimenti di Tullio, San Ciriaco, guardate, un santo il cui nome nella vita italiana evoca non proprio decisioni spettacolari, però insomma ogni tanto va ricordato anche questo. Allora, abbiamo detto lanciando la trasmissione che questa puntata è una puntata particolare perché abbiamo ospite in studio con noi il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che ci saluta. Buongiorno a tutti. Ecco, e al presidente di Confindustria, naturalmente oggi è una giornata pessima per me, perché ovviamente voi tutti avete già cominciato, cari ascoltatori, lo vedo dagli sms, a puntarmi i fucili, perché dice: ah, vediamo oggi quanto sei bravo a fare le domande a Twitter. È ovvio che è una posizione scomoda la mia, perché voi direte che le domande non sono abbastanza taglienti, oppure direte tagliente e sbagliato, e vabbè, io mi sottopongo come tutti i giorni al vostro giudizio. Ma la questione di fondo è questa: perché abbiamo scelto e perché il presidente di Confindustria ci ha fatto il favore di venire qui oggi a Radio 24, perché siamo a pochi giorni da un appuntamento che è particolare, che ci ha incuriosito, perché avviene in una forma, in una modalità che va spiegata, perché io non sono convinto che tutti voi, tanti in ascolto, conoscete davvero come avvengono i convegni di Confindustria, che tipologia hanno. Allora, dovete sapere che questo sabato a Bergamo c'è, invece di il convegno che si tiene tutte le primavere alternando, c'è un convegno nazionale, un anno è fatto dal Centro Studi, un anno dalla piccola impresa di Confindustria. Questa volta Confindustria ha deciso di fare una cosa diversa, che adesso il presidente ci spiega. E perché è diversa? Lo sentiremo da lei, ma soprattutto il motivo è perché decidere di fare una cosa di questo tipo. Lo dico da subito: se nel corso della trasmissione e non avete già stati prima, la settimana precedente, non avete ricevuto un invito o una lettera in cui vi si spiegava come aderire, partecipare, diventare parte di questo meccanismo, di questo convegno che è un po' particolare, di cui oggi parleremo, potete ancora oggi, di qui a sabato, prendere in considerazione l'idea di partecipare a questa cosa un po' singolare, come sentirete. L'unica preoccupazione che dovete avere è rivolgervi alla vostra associazione o unione industriale, perché questa è la prima particolarità. Questo convegno che viene a Bergamo è un convegno a porte chiuse, solo per imprenditori. Niente politici, niente ospiti, solo per imprenditori. Quindi voi capite che questa decisione qualche cosa di particolare vorrà dire. Allora, presidente, come mai questa decisione e che tipo di convegno sarà? Perché ha avuto questa idea? Ma guardi, perché proprio come diceva lei, quando con Enzo Boccia, presidente della Piccola, abbiamo cominciato a ragionare su come organizzare il tradizionale convegno della piccola industria, ci siamo detti: ma in un momento difficile come questo, di grande discontinuità, dove stiamo uscendo dalla crisi ma c'è una grande incertezza, dove c'è uno spostamento di centralità economica verso l'Asia, dove la competizione è fortissima, dove l'Europa è ancora in preda alla crisi dell'eurodebito, dove c'è un conflitto istituzionale in Italia grave, come si fa? Ha senso fare un convegno tradizionale dove chiamiamo alcuni politici della maggioranza, dell'opposizione, i sindacati, alcuni imprenditori e parliamo, sentiamo delle belle relazioni? Ecco, noi ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: no, un momento così difficile, un momento di così grande discontinuità, un momento un po' così, come dire, storico, tra virgolette, richiede una decisione diversa, richiede una decisione coraggiosa. E allora siamo anche andati a guardare un po' la nostra storia e abbiamo visto che questo tipo di incontro, che chiamiamo assise, che come diceva prima lei è riservato solo agli imprenditori, quindi non ci sono ospiti esterni, non c'è stampa, è a porte chiuse, è stato fatto, la vera, diciamo, prima e direi ultima grande assise è stata fatta nel 1992, momento che ricordiamo tutti, drammatico, difficile, Tangentopoli, un momento, come dire, di cambiamento, dove si intravedeva un cambiamento. E allora ci siamo detti: certo, grazie al cielo non siamo in un momento come quello, ma siamo comunque in un momento difficile di discontinuità. Allora, non facciamo un tradizionale convegno, facciamo questa assise, quindi è una riunione dove noi pensiamo ci saranno 5.000, 6.000 imprenditori, solo noi, senza politici, senza sindacalisti, senza rappresentanti delle istituzioni, senza stampa, e lì noi vogliamo proprio ragionare su noi stessi, vogliamo, come dire, ragionare su qual è lo scenario che abbiamo davanti e dire alcune cose concrete. Ora, già nelle modalità avete deciso di organizzarlo in un certo modo, cioè è successo che in queste settimane gli imprenditori hanno ricevuto delle lettere dicendo siete invitati calorosamente a darci le vostre proposte, perché nell'invito si diceva bisogna tutti partecipare per dare un'indicazione, chiunque di voi può darla, per questa Italia che vogliamo. In realtà come funziona questa cosa? Ma guarda, infatti l'idea è proprio di una grandissima operazione di ascolto che parte, come dire, proprio dalla nostra base, dagli nostri imprenditori. Cioè non vuole essere il presidente di Confindustria, la presidenza di Confindustria che incontra gli imprenditori e dà un messaggio e dice noi vediamo le cose così. No, l'idea è proprio quella di partire dagli imprenditori, fare una grandissima operazione di ascolto e poi arrivare dopo questa grande operazione di ascolto a redigere una agenda degli impegni che ci prendiamo prima di tutto su noi stessi, sulle relazioni, quindi su come cambiare Confindustria, su come fare impresa, su come procedere sul tema delle relazioni sindacali e certamente anche su un'agenda. Ecco, noi appunto sabato, poi dirò velocemente come si svolgerà sabato, ma abbiamo fatto un'operazione di preparazione. Noi abbiamo, la piccola industria ha fatto 8 incontri dove ha incontrato circa 2000 imprenditori, li ha ascoltati, li ha sentiti, li ha raccolto diciamo una serie di riflessioni su vari temi. Io stesso ho fatto 5 incontri preparatori sul territorio dove abbiamo sentito anche lì circa 1500 imprenditori. Abbiamo immediatamente, circa un mese e mezzo fa, quando abbiamo deciso di fare la SISE, aperto sul web, sul sito di Confindustria, una richiesta proprio di raccolta di riflessioni, di critiche, di idee agli imprenditori, e quindi già ad oggi, prima delle SISE, abbiamo fatto una grande operazione di ascolto. Il giorno sabato proprio ci divideremo in gruppi, continueremo a ragionare su alcuni temi specifici. Poi ancora nel pomeriggio in sessione plenaria continueremo a ragionare e come dire, l'obiettivo è, dopo questa grandissima operazione di ascolto, di arrivare su poche priorità chiare a redigere un'agenda, prendere degli impegni e su quelli poi far muovere tutta la Confindustria. Naturalmente, Presidente, una grande operazione di ascolto presuppone che poi tutti parteciperanno anche a delle decisioni, ma su questo, siccome è a porte chiuse, ribadisco, è raro vedere cose a porte chiuse. Se ci pensate, cari ascoltatori, non è che partiti politici, sindacati, associazioni di rappresentanza ci abituino a cose simili. È evidente che c'è una valutazione, il Presidente ha detto, ricordando 92, che è sullo stato del paese. Posso chiedere esplicitamente, la decisione di non avere i politici, per esempio, è perché loro non parlino o perché loro non ascoltino, per essere chiari? Ma tutte e due le cose, perché proprio, come diceva lei, insomma, quando siccome vuole essere proprio un'operazione in cui ci guardiamo in faccia tra di noi e decidiamo, lo vogliamo fare in modo assolutamente libero, proprio ragionando tra di noi, quindi non vogliamo che ci ascoltino i politici, non vogliamo che ci ascoltino altre, diciamo, istituzioni, e non vogliamo poi parlare noi, cioè vogliamo far parlare gli imprenditori, ma proprio gli imprenditori, non solo quelli che normalmente partecipano alla vita di Confindustria, ma gli imprenditori iscritti che magari girano il mondo tutta la settimana, tutto l'anno, però gli chiediamo proprio di venire lì e parlare, ragionare con noi, capire quali sono le cose da fare. Ecco, inutile dire che il Presidente mi ha pregato, dice, tu, è inutile che adesso mi chiedi che cosa diavolo dirò, perché se no non faccio l'assise prima ascoltando gli imprenditori e poi decidendo io che cosa dire dopo che li ho ascoltati. Ricordo a tutti tra l'altro che poi c'è l'Assemblea Nazionale che si tiene a fine maggio, quindi dopo poche settimane di Confindustria, però qualche considerazione bisogna per forza farla sulla condizione del paese, su a che punto siamo della crisi, poi tutto si troverà riapprofondito anche con il contributo di tutti voi imprenditori che ci ascoltate, e ribadisco, rinformatevi presso la vostra associazione Unione se non siete stati raggiunti dalle lettere, perché secondo me partecipare a un'occasione decisionale, anche qui io non conosco partiti o associazioni che riuniscano tutti i propri iscritti, gli chiedano di partecipare e di decidere. Pensateci se non è un'occasione in cui vale la pena di scomodarsi e andare a porte chiuse a dire come la pensate e a contribuire poi all'agenda. Però partiamo un secondo dalla condizione della crisi dell'Italia. Secondo lei, Presidente, come stiamo? Perché in realtà nei sondaggi l'opinione pubblica che non ha elementi economici dice qui altro che crisi, non siamo fuori dalla crisi per niente, le cose non ci sono. Ma guardi, il peggio, come dire, la parte più intensa della crisi probabilmente alle spalle, anche il dato di oggi sulla cassa integrazione, il ricorso alla cassa integrazione dimostra qualche lieve miglioramento, quindi non siamo più nella fase più acuta della crisi che abbiamo avuto nel 2009, dove ricordo abbiamo perso il 6% del PIL. però siamo ancora in una fase di crescita lenta, siamo ancora in una fase in cui il recupero dell'occupazione è basso, siamo in una fase in cui anche la produzione industriale e le esportazioni dopo i primi mesi abbastanza buoni di questo anno 2011 stanno un po' rallentando, quindi siamo ancora in una fase difficile, rallentata, e qui torna il tema sul quale io sono quasi ossessionante, mi rendo conto che se questo paese continua a crescere allo 0,8, all'1,1, noi non andiamo da nessuna parte, noi non riusciamo a riassorbire disoccupazione, non riusciamo a creare nuova occupazione per i giovani, non riusciamo a tenere in piedi il nostro sistema produttivo, e quando non si cresce c'è un problema non solo economico ma anche civile, sociale, quindi questo paese deve tornare a crescere al 2%, quindi non siamo ancora in una fase di economia che ha ripreso, siamo ancora in una fase rallentata e molto incerta. Ora vi leggo su quello che le agenzie stanno battendo: benzina vede 1,6 euro, nuovo record storico, nel frattempo il prezzo delle commodities che da aprile ci avevano fatto sperare di prendere una via al ribasso e insomma poi resistono rispetto anche agli avvenimenti internazionali. È inutile che vi ricordi, ma è sempre bene rinfrescarselo, e pur sempre la radio del gruppo Sole 24 Ore, quanto gli aumenti delle commodities alimentari e energetiche siano a doppia cifra da molti mesi a questa parte. Questa cosa ha un impatto ovviamente nei paesi che sono più dipendenti dal punto di vista energetico come da noi, ha un impatto sulla maggiore erosione del vostro già non troppo avvalorato potere d'acquisto, e quindi questa è una condizione in più che si aggiunge alla bassa crescita. Ecco, l'impressione, Presidente, è che nel dibattito italiano di questi ultimi anni ci sia stato come un punto di fondo. Molti dicevano la politica deve fare di più, e naturalmente il sottinteso era che molti pensassero anche che la politica potesse fare più deficit, più debito pubblico, proprio perché se non lo si fa nei momenti in cui perdiamo più di 6 punti di PIL, come è capitato all'Italia, e l'uscita è meno rapida, e quindi alla fine l'impressione del maggior deficit subito che Tremonti vuole evitare è un'impressione sbagliata, perché serve semplicemente a farci uscire fuori dalla crescita. Ma in realtà questo tipo di posizione di chi pensava che la finanza pubblica potesse fare di più è stata mai la posizione di Confindustria? Cioè, ancora oggi qualche imprenditore, la maggioranza degli imprenditori, secondo lei ha pensato negli ultimi 2 anni che abbiamo alle spalle che questo fosse il tipo di atteggiamento da aspettarsi dalla politica rispetto alla condizione della nostra finanza pubblica? Ma guardi, Confindustria in questi anni di crisi, ma anche precedentemente, ha sempre detto con molto chiarezza, il nostro comportamento è stato molto lineare su questo: noi pensiamo che per ricominciare a crescere bisogna avere i conti pubblici in ordine, non si può, in un momento, noi siamo arrivati alla crisi, siamo entrati nella crisi già con un deficit consistente, con un debito pubblico tra i più alti, quindi usare il debito pubblico, il deficit, per fare un po' di crescita o per aiutare l'economia in difficoltà sarebbe stata una scelta sbagliata, quindi noi questo non l'abbiamo mai chiesto. Noi abbiamo sostenuto la politica di rigore dei conti pubblici del governo, e io l'ho detto più volte, io sono convinta che se noi avessimo fatte manovre in deficit oggi la nostra posizione sarebbe più complicata, anche rispetto alla crisi dell'eurodebito. Quindi il tema su questo noi siamo sempre stati a favore. Chiaramente abbiamo sempre chiesto al governo, però, su alcuni punti fondamentali di esserci, in particolare sugli ammortizzatori sociali, e lì c'è stato uno stanziamento, sul fondo di garanzia per aiutare alle piccole imprese a non avere un credit crunch, una restrizione del credito pazzesca, qualche cosa per aiutare gli investimenti con la Tremonti Ter, sulla ricerca e innovazione. Quindi noi abbiamo detto non si può sforare sui conti pubblici, un paese come il nostro col debito che ha non può sforare sui conti pubblici, però che si investa su poche cose fondamentali, e su questo ci siamo sempre battuti con molta molta forza. Allora, una delle svolte fondamentali fin dall'inizio della sua presidenza di Confindustria è avvenuta su un terreno che è un terreno importantissimo per un'associazione ovviamente d'impresa, quello delle relazioni industriali, perché Confindustria, insieme alle altre associazioni datoriali e insieme alla maggioranza dei sindacati, alla CISD, alla UIL, all'UGL, sottoscrisse, ponendo nelle basi alla fine del 2008, quando lei era presidente da pochi mesi, per poi firmare all'inizio del 2009, un nuovo accordo interconfederale sulle modalità con cui redigere insieme e definire insieme i contratti. E da allora si è aperta una stagione completamente nuova nella vita italiana, una stagione nella quale più o meno la regola che si sono date le associazioni di impresa, Confindustria alla testa, e quelle sindacali è quella di poter decidere a maggioranza, non più all'unanimità. Però è una pagina che ha aperto poi molte polemiche, le polemiche sulla possibilità di derogare per intesa ai contratti, le polemiche sul fatto che vi siano aziende come Fiat che ritengono di perseguire una strada ancora diversa, cioè quelle delle intese stabilimento per stabilimento con nuove società stabilimento per stabilimento. Ecco, su tutte queste polemiche siamo arrivati a uno sviluppo nuovo, perché il voto che c'è stato ieri, dopo i voti in cui la Fiomma ha perso con il no sulle intese per Pomigliano e sulle intese per Mirafiori, ieri il terzo atto di questo scontro all'interno del gruppo Fiat, perché alla Bertone, all'ex Bertone, i lavoratori della ex Bertone hanno votato di fronte all'azienda che chiedeva anche in quel caso intese di stabilimento produttività con le regole dei 18 turni come per i precedenti due stabilimenti. La particolarità, lo dico per chi è a casa e tutto questo non lo può sapere o non lo ricorda, è che quegli oltre 1000 dipendenti della ex Bertone erano in cassa integrazione da lunghissimo tempo, da praticamente 20 mesi, anni non mesi insomma, sono a stragrande maggioranza, più del 75% con la testa della Fiom in tasca, eppure al momento del voto la RSU ha detto: cara Fiom, noi votiamo sì perché vogliamo lavorare. E sui giornali di oggi c'è tutto un seguito della polemica con la Fiom che dice: sì, noi comunque ci adeguiamo ai nostri della RSU, però comunque non sottoscriveremo. La domanda che le faccio: se dovesse fare un bilancio retrospettivo di questi due anni, primo, valeva la pena di questa nuova impostazione? Secondo, l'opposizione, lo scontro di quest'ultimo anno, in qualche misura quali elementi di riflessione le ha dato? Terzo, se questo atto alla Bertone in qualche misura cambia un po' le carte in tavola? Guardi, ne valeva la pena, come tutte le cose difficili, discontinue. Ricordo che erano 10 anni che si parlava, era dal 98 che si parlava della necessità di cambiare il modo in cui le regole in cui si rinnovano i contratti, non era mai stato fatto perché c'era sempre stato, come dire, un veto della CGIL. Ricordo in particolare negli ultimi 4 anni, quando si cominciò, prima della mia presidenza, quando si cominciò a trattare, la CGIL si alzò, se ne andò e si bloccò qualsiasi trattativa, ma anche prima c'erano stati tentativi sempre, diciamo, poi alla fine rimasti sulla carta. Quindi, come tutte le cose discontinue, nuove, suscitano polemiche, suscitano divisioni, però la mia opinione è che bisognava farlo, perché tutto sommato l'abbiamo fatto appunto all'inizio del 2009, parlandone già nel 2008, comprendendo che entravamo in una fase completamente nuova, appunto, in cui certe, diciamo, livelli di produttività così bassi in certe aziende, certi livelli di assenteismo così bassi, certi livelli di così bassa competitività non erano più sostenibili, cioè voleva dire portare alle aziende a non riuscire più a stare sul mercato. Ci tengo a dire che non sono solo le relazioni sindacali che fanno la competitività di un'impresa, questo è chiaro, però questo è un capitolo importante su quale il paese non aveva fatto passi in avanti. Quindi la mia valutazione è che è stata una scelta difficile. Ci tengo anche a dire che noi non siamo interessati alle separazioni o alle, come dire, esclusioni. Noi fino all'ultimo momento abbiamo sempre tenuto la porta aperta a CGIL, abbiamo sempre sperato e pensato che la CGIL potesse firmare, tuttora la porta è aperta, siamo sempre pronti a ragionare, però è arrivato il momento in cui abbiamo detto bisogna andare avanti, questa pressione sulla produttività e sulla competitività è molto chiara. E in queste nuove regole abbiamo detto delle cose abbastanza chiare, abbiamo detto bisogna fare contratti nazionali che manteniamo, però più flessibili, derogabili a livello aziendale se ci sono casi specifici di crisi, di ristrutturazione o anche di nuovi investimenti. Bisogna cominciare a ragionare su rendere esigibili i contratti, bisogna fare in modo che se si fa un accordo tra sindacati e impresa, poi questi accordi devono essere confermati e devono essere appunto rispettati, e quindi abbiamo messo le basi di questo ragionamento. Quindi la mia valutazione è che sì, ne valeva la pena, come tutte le cose poi si inizia un processo complicato che poi magari dà i risultati nel tempo. L'ex Bertone segna un passo in avanti. Guardi, io credo che sta succedendo una cosa molto chiara. Intanto ci tengo a dire che noi abbiamo firmato tutti i contratti, tutti i settori, anche con la CGIL. L'unico che non abbiamo firmato con la diciamo la componente CGIL è quella dei meccanici FIOM. Tutti gli altri li abbiamo firmati con la CGIL. Allora qui c'è un problema molto chiaro, dove c'è un pezzo della FIOM, nemmeno tutta, un pezzo della FIOM che, come dire, ragiona più su principi, su ideologie, senza guardare concretamente le cose. Qui è successo, ma ci tengo a dire che è successo anche in altre aziende, è successo anche nella mia azienda una cosa simile, in altre aziende che conosco, che i lavoratori, anche i lavoratori, le RSU FIOM all'interno delle aziende, quindi i rappresentanti della FIOM all'interno delle aziende, comprendono i problemi, magari discutono fino alla fine, ma comprendono i problemi, alla fine seguono l'azienda dopo una trattativa. Abbiamo invece la componente nazionale FIOM che dice no, no, no, no, perché vogliamo stare su quello che abbiamo fatto fino adesso, non vogliamo cambiare. Ecco, a me sembra che questo evento cambia la logica, c'è una spaccatura in corso. Chi sta nelle aziende, anche chi è iscritto alla FIOM, capisce che oggi la situazione sta cambiando e allora o, come dire, riusciamo a fare un passo in avanti in termini di competitività e produttività insieme, o altrimenti, come dire, non ce la facciamo insieme. Eccoci tornati in studio, siamo con il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Ci tengo, visto che così esauriamo la parte di ragionamento, con avete sentito i suoi giudizi su i 2 anni che abbiamo alle spalle di relazioni industriali, io da giornalista devo ritenere, faccio io la polemica perché non voglio chiedere al presidente di Confindustria giudizi che potrebbero imbarazzarla, ma io quando mi trovo col Corriere della Sera di oggi, proprio commentando su il voto della FIOM ribaltato rispetto alle richieste tradizionali, al no della FIOM dai rappresentanti della RSU, della ex Bertone, per cui poi alla fine sono stati 886, sì, cioè un diluvio rispetto ai no, e trovo scritto da un amico, perché un mio amico Massimo Mucchetti, più volte ve l'ho detto, io ho stima per lui, siamo molto spesso in dissenso, quindi non è una polemica che abbia alcunché di mancanza di rispetto, però quando trovo scritto sul Corriere della Sera, testualmente, la verità è che questi accordi sindacali allineano le condizioni delle maestranze dell'auto italiana ai livelli bassi tipici dell'America contrattualista, azzoppata dalla fede cieca nella finanza e non a quelli alti conquistati dalla Germania industriale. E dopodiché la conclusione è che, visto che oramai le relazioni industriali, cioè il lavoro vittima della parte preponderante oramai, cioè dell'impresa e della finanza, da solo non riesce più a difendersi, ci deve pensare la politica, tradotto significa se non oggi domani un governo deve mettere mano a interventi legislativi coattivi che violano il principio nuovo di questi 2 anni per cui si possono fare accordi a maggioranza, imprenditori e sindacati, io vi devo dire con sincerità, cari ascoltatori, che non condivido né il primo giudizio né tantomeno l'ultima conclusione. Già è stato così complicato in tanti anni arrivare alla conclusione che si può decidere a maggioranza anche nel mondo del lavoro, come in tutti gli altri ambiti della vita organizzata. Vogliamo tornare indietro alla politica che dice alle imprese e ai sindacati state zitte, comando io? Questa è la mia personale opinione, ma per dire di come il dibattito sia molto aperto, le posizioni siano molto ampie. Presidente, guardi che tra i nostri ascoltatori ci sono un mucchio di domande, a parte Gianni di Reggio Emilia, non mi dispiace deluderla, lei secondo me è un pretendente deluso perché chiede al presidente ma sei libera, perché lui è libero, lo vuole sposare, il presidente non è libero, quindi Gianni di Reggio Emilia secondo me tu hai un po' equivocato, no, ma ci sono moltissime domande invece, perché sul fatto di aver spiegato la Sise niente politici a porte chiuse, molti credono che sia una specie di trucchetto con cui Confindustria fa parlare Berlusconi in quanto imprenditore, gli altri politici no e lui sì. Vogliamo chiarirlo? Che assolutamente non ci sarà il presidente Berlusconi, non ci sarà nessun ministro, non ci sarà il presidente Berlusconi, ci saranno solo gli imprenditori iscritti a Confindustria, quindi su questo è chiarissimo, non ci sarà il presidente Berlusconi. E l'unico, guarda, ci tengo a dirlo perché credo che sia una cosa abbastanza interessante, gli unici esterni che ci saranno agli iscritti a Confindustria saranno alcuni giovani che sono andati all'estero a lavorare, a studiare, e lì ci racconteranno, come dire, alcune esperienze interessanti per capire perché là ce l'hanno fatta e perché qua non ce l'hanno fatta, no? E qual è il loro, quali sono i loro consigli per cambiare il paese. Quindi non ci sarà Berlusconi. No, naturalmente ce ne sono anche tantissimi che chiedono: ma non è che avete in mente voi qualche cosa di politico? Ma ci sarà Montezemolo? Io Montezemolo è un past president, non è ancora in politica, tutti quanti, perché ce ne ho 45 qua di voi che chiedete. Ma se l'indicazione è gli imprenditori sì e i politici no, chi è politico no e chi è imprenditore sì, questo è ovvio. Però insomma l'idea è quella, perché su questo forse è il caso di spiegarlo anche alla stampa prima che è in ascolto, non è che nasce un partito politico, è innanzitutto una modalità perché voi diciate tra di voi le priorità per Confindustria. C'è anche il capitolo come cambiare, certo, Confindustria. No, anzi, grazie per questa cosa, perché ci tengo proprio a chiarire, qua non nasce nessun partito politico, ci mancherebbe altro. Confindustria rappresenta le imprese, porta avanti gli interessi, ovviamente le valorizzazioni delle imprese in un'ottica ovviamente di interesse generale, perché siamo convinti che tu puoi fare impresa bene nel medio periodo solo in un paese sano, serio, solidale, che premia il merito, che premia chi è più bravo e tutela chi è più debole. Quindi non c'è nessuna volontà di fare un partito politico, ci mancherebbe altro, c'è la volontà di guardarci in faccia e dirci: intanto anche Confindustria deve cambiare, quindi noi ci prenderemo degli impegni per cambiare, efficientare, rendere più vicina alle imprese Confindustria. Ci sarà una parte proprio che riguarda noi, dove ragioneremo su come, quali sono le sfide vere per le imprese, no? E non, ovviamente non voglio anticipare temi, ma già da tutto quello che abbiamo visto fino adesso ci sono delle cose molto importanti sull'internazionalizzazione e su altri aspetti. C'è una parte, dobbiamo chiarirci bene come andare avanti sulle relazioni sindacali, io ho detto la mia idea, ma insomma voglio dire dobbiamo capirlo con gli altri, e poi su poche cose fondamentali noi chiariremo qual è l'agenda che daremo, che indicheremo alla politica. Quindi non c'è nessuna volontà di creare nessun partito politico, ci mancherebbe altro, c'è la volontà di dire: noi rappresentiamo una componente importante di questo paese, una componente che sta, no, sui mercati, che vede la concorrenza almeno per una buona parte di noi, e quindi vogliamo, siamo in tanti, saremo lì in tanti, ci confronteremo e alla fine vogliamo dire la nostra e vogliamo, come dire, prendere impegni su noi stessi e chiedere impegni agli altri, alla politica, ai sindacati, per uscire da questa situazione in cui il paese cresce troppo poco, è un po' come se fosse anestetizzato. E moltissime altre sms proprio sono sul punto preciso, perché per esempio c'è Gabriella Chieri, e Gabriella Chieri secondo me sa molto bene su cosa sono le impugnative della FIOM, perché dice: chiedi al presidente un'opinione sulla cessione di ramo d'azienda quando il cedente è in ottime condizioni finanziarie e economiche, questa è la base dell'impugnativa FIOM, e così via. Il problema è che o uno pensa che esistano le relazioni industriali, esatto, o uno pensa che esista la giustizia. La via giudiziaria alle relazioni sindacali è una via sbagliata, io lo dico chiaramente. Con i sindacati bisogna trattare fino all'ultimo, anche in modo duro, però non è che possiamo pensare che facciamo le relazioni sindacali attraverso i tribunali, perché se questa è la logica vuol dire far cadere, abdicare al ruolo di parti sociali, abdicare al ruolo di questa autonomia tra delle rappresentanze di imprese e le rappresentanze sindacali, che molto hanno avuto come ruolo in questo paese positivo. Se noi ci affidiamo ai tribunali, come dire, non è secondo me quella la strada giusta per migliorare la competitività, la capacità di crescita del paese. Allora, rapidamente sentiamo alcuni ascoltatori che sono in fila con le loro telefonate per vedere che cosa chiedono al presidente. Ci chiama Dino da Padova, prego Dino. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno alla Presidente, sono un iscritto di Confindustria Padova, faccio parte della sezione sistemi innovativi e tecnologici e vorrei sollevare un nuovo argomento che non avete toccato fino adesso, sì, cioè le liberalizzazioni e che cosa vuol fare realmente Confindustria per attuare nei fatti le liberalizzazioni e come intende sganciarsi dai vincoli che alcuni associati grossi pongono, soprattutto sul tema delle telecomunicazioni. Aha. E delle mancate liberalizzazioni delle telecomunicazioni, e quindi anche se la dottoressa Marcegaglia è a conoscenza di posizioni diverse da quelle portate avanti da Astel, che se non ricordo male sta uscendo, è già uscita da Confindustria, che rappresenta gli operatori telefonici, e la possibilità che si faccia una Next Generation Network secondo un modello ben diverso e che non preveda il finanziamento pubblico per nemmeno un euro, che è la posizione che lei, Giannino, conosce. Sono anche quella su cui sono d'accordo, però attenzione che Astel non sta uscendo da Confindustria, perché è una riarticolazione interna di come le imprese del ramo delle nuove tecnologie e gli operatori di comunicazione sono in Confindustria. Comunque, questa domanda di Dino, sentiamo Rudy che ci chiama da Trento. Rudy. Buongiorno. Prego. Buongiorno a lei, al presidente Marzegaglia e agli ascoltatori. Io devo riconoscere un grande coraggio a Confindustria in questa fase, soprattutto per le varie prese di posizione nei confronti del governo e della inattività del governo. Io vorrei sapere se non è il caso in questa fase di prendere qualche posizione di rottura. Io sappiamo che in Italia ci sono un sacco di incentivi a vario titolo concessi dallo Stato e dalle regioni per operazioni di vario titolo sempre. E non è il caso in questa fase nella quale è necessario rilanciare i consumi interni, barattare questi incentivi a favore di una generale riduzione del peso fiscale sul lavoro inteso delle imprese e dei lavoratori. Dei lavoratori insieme. Chiarissimo, chiara, la domanda è chiarissima, Rudy. Allora, questa è qualche prima considerazione a questi due ascoltatori, Presidente? Bene, intanto Adino, grazie per la domanda. Dunque, intanto ci tengo anch'io a dire, Astel non sta assolutamente uscendo a Confindustria, si sta facendo una rimodulazione per cui ci saranno due gruppi diversi da Confindustria Servizi Innovativi, ma non c'è nessuna volontà di uscire. Ecco, io, guardi, sul tema liberalizzazioni, questo sarà uno dei temi al centro proprio delle richieste dell'agenda. Noi siamo convintissimi che da lì passa una vera possibilità di crescita, perché come dicevamo prima, se noi non possiamo sforare sul deficit, anzi come sappiamo gli impegni che stiamo prendendo con l'Europa e anche con i mercati finanziari è di ridurre il deficit e arrivare al pareggio di bilancio 2014, noi dobbiamo soprattutto concentrarci su quelle riforme fondamentali a costo zero. Le liberalizzazioni sono essenziali, c'è il tema telecomunicazioni che ha citato lei, c'è il tema energia, c'è il tema gas, c'è il tema trasporto, c'è il tema professioni, c'è il tema servizi pubblici locali. Qui ci tengo a dire che il governo su queste cose ha fatto dei passi indietro, ha rimesso le tariffe minime ai professionisti, ha rimesso le tariffe minime ai trasportatori, sui servizi pubblici locali, come sapete c'è un referendum, questo non è colpa del governo ma di chi vuole promuovere una logica per cui torniamo indietro, non ci saranno più le gare, ma tutto. Quindi questo è un paese dove il termine mercato e liberalizzazioni non hanno casa. Lei ha ragione nel dire, lo dico in modo molto aperto, che noi all'interno abbiamo anche come Confindustria alcune aziende che vivono di oligopoli, però su questo le posso assicurare che noi su questo andremo avanti seri, perché siamo convinti che questo è il tema. Sul tema particolare della Next Generation Network io sono assolutamente d'accordo, le dico anche che il 13 giugno faremo una riunione con tutti i principali protagonisti sulla agenda digitale, e uno degli argomenti fondamentali sarà proprio questo, quindi su questo tema ci siamo e condividiamo. Sul tema di Rudy, intanto la ringrazio per il coraggio di cui ha parlato. Guardi, io sono totalmente d'accordo. Ci tengo a dire che ormai, guardi, incentivi ce ne sono ormai pochi, però la nostra posizione, la mia posizione personale è che gli incentivi singoli non servono. Drogano spesso il mercato, ti fanno pagare una punta di vendita all'inizio, poi dopo hai un calo, creano problemi tra settori e settori, quindi il tema incentivi non è la strada per la crescita. Noi, una delle proposte fondamentali è proprio quella del fisco. Voi sapete che se noi guardiamo le imprese e il lavoro dipendente, lì c'è un carico fiscale enorme, molto più alto della media europea, molto più alto della Germania per esempio. Quindi la nostra idea è proprio che bisogna ridurre il peso fiscale su chi tiene su questo paese, cioè i lavoratori e le imprese. Noi pensiamo che si possa ragionare riduzione di incentivi da una parte, lieve magari aumento di alcune aliquote IVA, il tema delle rendite finanziarie, insomma ci sono alcuni temi su cui ragionare, ma non v'è dubbio che una riforma fiscale che abbassi le tasse su imprese e lavoratori è l'elemento fondamentale che può ridare crescita al nostro paese. Ora le informazioni sulla circolazione stradale, tra un minuto torniamo. Eccoci tornati in studio per quest'ultima parte, moltissimi messaggi, io li leggo alcuni al volo. Perché non andate su Facebook, ci chiede Luigi. Poi c'è quello di Roberta, Roberta io però non posso dire da dove ve lo mandi, perché leggo, sono un'operaia iscritta alla CGIL, ma ormai ripongo la mia fiducia nella buona volontà del presidente di Confindustria e non sono nei dirigenti della mia confederazione. Roberta, se io dico da dove me lo mandi, ti metto nei guai, per così dire, però intanto ci sono anche questi. Però intanto non è che siete un po' indietro anche voi sull'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione, si chiede Luigi? Devo rispondere? Sì. Beh, forse un po' sì, infatti, come dire, stiamo cercando questa diciamo assise nasce anche un po' con questa logica, no? di sentire di più i nostri associati e anche gli altri, tutti attraverso appunto internet. Forse, su Facebook ha ragione, dobbiamo fare di più, siamo un po' antichi su questo, ragioneremo. Perché forse il problema è che attraverso nuovi strumenti si può mettere in condizione la gente di partecipare, però anche di decidere. Guardate che ci riflettete, voi in ascolto, voi conoscete partiti italiani o associazioni che attraverso i nuovi strumenti di comunicazione sentono la gente, li fanno votare, li chiedono opinioni? Io non li conosco, a dire la verità. Quindi questa, cioè, forse c'è una sorpresa. Ragioneremo. Il presidente non me l'ha voluta dire, dice non me lo chiedere, però forse c'è una sorpresa. E per questo vi dico, scusate, voi che siete in ascolto, siccome sul tema fisco e tasse, di cui abbiamo parlato poco, perché il presidente dice domani c'è il nuovo decreto che esce dal governo, non mi mettere in difficoltà con il presidente. Però siccome gli ascoltatori di questa trasmissione sanno che Giannino dice basta fisco da Stato ladro, io prego tutti i miei amici iscritti a Confedusa, a qualunque associazione elettorale, di andare sabato, perché temo che voi possiate in qualche maniera chiedere. Più siete a pensare meno stato ladro sul fisco, come questo pazzo di Giannino, più fate una Confindustria che secondo me fa bene al paese. L'ho detto io, perché così evito al presidente. L'ho detto io, così evitiamo al presidente. Sentiamo ancora rapidissimamente due telefonate. La prima è di Davide da Padova. Prego Davide. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno Oscar Giannino. Sì. Sono Davide, iscritto alla territoriale di Padova. Oh, ma ce l'abbiamo davvero noi gli iscritti allora che ci ascoltano? Allora, prego. Assolutamente, intanto un grazie per queste assise. Io passo il mio messaggio e penso sia un momento importante. Spero che venga. Credo in particolare, purtroppo un viaggio di lavoro a New York non potrò esserci, lascio quindi la mia sollecitazione, io mi occupo di turismo. Cioè Davide, lei vuole farci capire che chi è serio deve pensare all'impresa, non fa rappresentanza, alla fine fa rappresentanza solo chi ha tempo da perdere? No, assolutamente no. Purtroppo sono viaggi di lavoro schedulati e anzi il fatto di essere qui vuol dire proprio esserci, appoggiare il Presidente sulle priorità che ritengo importanti. Il turismo è una di queste, è un punto di sviluppo. Credo che sia importante su questo sollecitare il Governo e sollecitare un Ministero che in questo periodo non ha risposto alle sollecitazioni di Federturismo, delle organizzazioni non solo di Confindustria, e sul quale il Governo, nonostante i vari proclami, non ha poi preso e portato avanti. Ok, quindi lei dice bisogna fare di più. Ok, grazie Davide. Rapidamente Andrea, che ci chiama invece da Livorno. Prego Andrea. C'è sempre Andrea da Livorno collegato? 1, 2, 3, mi pare che Andrea non ci sia. Sentiamo invece Mariano, che ci chiama da Torino. Pronto? Eccoci Mariano. Sì, in linea? Prego, dica, si è in linea. Stiamo ascoltando, perfetto, quindi allora, rapidamente. Saluto tutti quanti e ringrazio per... Buongiorno a lei. Allora, buongiorno. Ci dica. Per avermi richiamato. Vado subito al punto. Sì. Io purtroppo non ho colto l'inizio della trasmissione, però volevo collegarmi brevemente. Lei ha citato l'articolo del dottor Mucchetti. Sì, sul Corriere della Sera di oggi. Ecco, la mia breve considerazione è proprio questa, che credo che oggi non si possa non essere d'accordo con la tesi del dottor Mucchetti. Cioè che è la politica che deve rientrare e dire alle parti sociali, limitandone la libertà contrattuale, dicendo alla politica mette dei paletti e vi dice cosa fare, questo. Ma qual è il problema, dottor Giannino? Sì. Che la politica in Italia oggi è fatta da gente che è assolutamente inadeguata. Questo è il allora, problema. Perdonami, è proprio per quello la vogliamo... No? Ecco, il concetto qual è? Che oggi... È evidente oggi Confindustria fa il suo mestiere, ma che ci sia un problema di disparità di forze. Ah, ho capito, lei dice no, non ho capito. La conclusione è giusta, perché se la politica non tutela i lavoratori che hanno troppa poca forza rispetto alle imprese, le dice, e quindi se non sia il caso di considerare che la politica riprenda un po' il pallino in mano. Allora, due punti, turismo e ancora, come vede, contratti, perché lavoro, contratti, disoccupazione sono il più dei messaggi che vengono, ecco, Presidente. Bene, Davide, grazie. Guardi, io sono fortemente convinta che il turismo è una grande opportunità per il paese, io ho anche investito personalmente nel turismo, già il turismo fa il 10% del PIL, potremmo fare molto di più, tutte cose che conosciamo. Sono d'accordo che bisogna fare di più, non tanto anche qui con incentivi, aiuti, ma il turismo si sviluppa se ci sono le strade, se ci sono gli aeroporti, se ci sono buoni servizi, se ci sono gli ospedali, no? Vedevamo tra le richieste di molti tour operator esteri che vicino agli alberghi ci siano ospedali buoni, insomma, ci sono, quindi il turismo ha bisogno di un paese che funziona nel suo complesso, però ecco, anche lì parleremo di questo, perché siamo molto convinti che questo è un settore che può essere sviluppato, dove possiamo veramente essere leader. Noi eravamo leader alcuni decenni fa, oggi abbiamo perso la leadership, l'ha presa la Francia, la Spagna, gli Stati Uniti. Ecco, questo è uno di quei campi in cui potremmo, con una politica seria e forte, tornare leader. Quindi su questo sono d'accordo e lavoreremo su questo, la nostra Federturismo sta lavorando, lavoreremo anche noi. Mariano, guardi, due punti. Intanto io le voglio dire, se lei legge, immagino l'abbia fatto, se non l'ha fatto magari la invito a farlo, legga gli accordi diciamo di Pomigliano e soprattutto di Mirafiori, e lì la verità che è vero che si chiede ai lavoratori in qualche caso di lavorare anche di più, ma in cambio di paghe più alte, di salari più alti. Cioè, qui ormai dobbiamo comprendere che in una situazione come questa i salari devono crescere. Io sono convinta che i salari debbano crescere, ma debbano crescere a fronte di una maggiore produttività nelle imprese, maggiori risultati nelle imprese. Se non è così, non ce la facciamo. Quindi l'accordo di Mirafiori, tanto strumentalizzato, su cui si è detto, si è scritto di tutto di più, è un accordo dove i lavoratori prenderanno più salari. Certo, lavoreranno in parte anche più, ma prenderanno più salari. Quindi, come dire, attenzione, ecco, a dire c'è una disparità. E poi, insomma, lei sa che il sindacato in Italia ancora è molto forte, quindi io su questa disparità di forze, ma insomma, ecco, ragioniamo, ragioniamo, guardi anche negli altri paesi cosa succede. Ultimo aspetto, guardi, io sono fortemente convinta che su questo tema dei rapporti sindacali, che ci sia una politica brava o meno brava, la politica non deve entrare in queste cose, deve essere lasciata alla forza di contrattazione tra imprese e sindacati, e le assicuro, avendo anche un po' di esperienza, che i sindacati in Italia non sono affatto deboli, tutt'altro. Penso anch'io che più o meno possiamo essere d'accordo su questo. Allora, noi ringraziamo il presidente Marcegaglia. Tre appelli finali. Primo, tutti voi che fate parte del sistema Confindustria e ancora non avete preso in considerazione l'idea di esserci a Bergamo, guardate che la mia opinione è che è un'occasione in cui si decide, non è che si vada ad ascoltare stavolta, si decide. Secondo, chi la pensa come me contro lo Stato ladro nel fisco, lì può dare una botta, e la può dare nel nome di una parte dell'impresa che tiene in piedi questo paese. Terzo, non si parla solo di questo, guardate che la questione dell'occupazione è una questione che oggi è trasversale. L'occupazione, se non la fa l'impresa, se non la difende l'impresa, non c'è neanche per chi oggi è una vittima della crisi. Questo è una cosa da rimettere all'ordine del giorno. Tutti, anche l'informazione deve spiegarla, deve darsi ciascuno un dovere di dare una mano su questo. Quindi appuntamento a Bergamo, grazie al presidente Marcegaglia. E infine, tutti hanno detto che non ho la spina dorsale, non ce l'ho, va bene, io difendo Emma Marcegaglia, e l'avete sempre sentito dire da questi microfoni, e se pensiate che non sia un bravo giornalista per questo, va bene, fino a che pro tempore sono qua, mi beccate così, altrimenti, come dicono molti, c'è Santoro come alternativa. Mica è l'alternativa a Santoro, perché mica Santoro invita la Marcegaglia e si porta la Marcegaglia in trasmissione. Invece nel piccolo noi sì. Viva Radio 24, a domani. Grazie.